Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, oggi partiamo dalla Grecia con il viaggio del presidente del Consiglio Letta, che ha detto tra l'altro: vengo ad Atene per incoraggiare l'opinione pubblica greca, per dire che esiste un'Europa che vuole aiutare la Grecia per poter aiutare anche se stessa. Tutti gli aggiornamenti da Laura Bettini. Buongiorno, si traspare grande soddisfazione da entrambe le parti per l'incontro di queste ultime 24 ore. C'è stata poco fa una conferenza stampa, si è appena conclusa. Samaras, il premier greco, ha parlato diffusamente del successo che attribuisce a Italia e Grecia per la vittoria da parte del consorzio TAP, che vorrebbe dire Trans Adriatic Pipeline, della gara per la realizzazione del gasdotto che porterà il gas naturale dal giacimento a zero di Shah Deniz proprio da noi attraverso la Grecia e l'Albania. Come già nelle interviste rilasciate prima del vertice, Letta invece ha voluto porre subito l'accento sul futuro dell'Unione, che non dovrà più essere percepita come matrigna. Sentiamolo. L'Europa nella mitologia e nella storia è nata qui. L'Europa è andata in crisi qui e l'Europa risorgerà qui. Grecia e Italia avranno nel 2014 la presidenza di turno dell'Unione Europea, un'occasione d'oro per rilanciare una politica europea che affronti le questioni chiave in prospettiva mediterranea, hanno detto entrambi: integrazione, economia, immigrazione clandestina, ma soprattutto lavoro, la madre di tutte le questioni, una piaga continentale cui l'urgenza di rispondere, dice Letta, dovrebbe essere la bandiera comune. Bettini, restiamo nel sud del Mediterraneo, dove l'alto rappresentante UE per la politica estera Catherine Ashton è in visita al Cairo. Ieri ha lanciato un appello per un processo di transizione politica e pacifica che includa anche i Fratelli Musulmani, il movimento del presidente deposto Mohamed Morsi. In un comunicato pubblicato subito dopo il suo arrivo, la Ashton ha spiegato di essere in Egitto per parlare a tutte le parti e per rafforzare il messaggio in favore di una transizione politica totalmente inclusiva, capace di associare tutti i gruppi politici e dunque anche i Fratelli Musulmani. E ancora invece rapporti UE-Cina. La Cina, che nel quadro del negoziato che si è chiuso venerdì sui pannelli solari, si è impegnata a non adottare eventuali misure antidumping sul vino fino almeno alla fine del prossimo giugno. Questo lo ha detto il commissario UE per il commercio Karel de Gucht, e dunque i produttori di Francia, Italia e Spagna e degli altri paesi interessati avranno quasi un anno per negoziare. Questo accordo fa parte del patto siglato venerdì che ha posto fine alla disputa apertasi sull'importazione di pannelli solari cinesi in Europa, una questione che aveva diviso gli stessi stati europei. La soluzione trovata, ha spiegato De Gucht in una nota, porterà a un mercato più equilibrato e a prezzi accettabili per tutti. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio presentare alcune delle offerte pubblicate sul portale EURES, la rete europea dei centri per l'impiego coordinata dalla Commissione europea, un servizio gratuito che vede la partecipazione di ben 850 consulenti in tutti i paesi dell'Unione. Da segnalare questa settimana la ricerca di ingegneri in Svezia, esperti nel settore auto, di due addetti alla manutenzione di macchine per stampi in lamiere a Wrocław, in Polonia, e di un psichiatra nel centro di salute mentale Kolding, nella Danimarca meridionale. Tutte le informazioni dettagliate per le candidature si trovano sul sito www.clicklavoro.gov.it, da dove è scaricabile anche EURES-TAG, una divertente applicazione simile al Ruzzle per scoprire l'Europa giocando con le parole. E naturalmente tutto su radio24.it. Questo per ora è tutto. Europa 24 torna domani intorno alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.